ossessione o attenzione verso il carattere, la natura maschile, non l'avevo affatto preventivata, e non sono poi un sociologo, uno psicologo, appunto mi sono nutrito e servito di infiniti libri sulla materia di persone che lo hanno fatto invece in maniera professionale, però ricavandone una straordinaria identità con quella che era stata poi la mia personale esperienza, cioè quello che leggevo nei saggi dei sociologi americani sopra i maschi. L'hai reso narrativo. Esatto, ma poi corrispondeva in pieno a quella immagine che io do nel libro di questa classe esclusivamente maschile, come di un secchio pieno di granchi che si arrabattano, si combattono un po' vanamente l'uno con l'altro, oppure sembra che si stiano aiutando l'un l'altro per uscire dal secchio, ma poi ricadono sempre su se stessi. Credo che ci sia questa natura agonistica, diciamo così, che ancora era molto forte, credo sia ineliminabile dalla natura maschile, mostri più l'impotenza di chi la esercita che invece la forza. Cioè si è sempre pensato al maschio come a un essere forte, invece proprio il fatto che combatta così duramente per crearsi un'identità mostra che questa identità è fallace, inizialmente proprio è manchevole, c'è qualcosa che gli manca, cioè il maschio non è quello che è quello che dovrebbe essere e che mai riesce ad essere. Questo doversi dimostrare meglio di quello che si è una gara fallimentare, come anche prendiamo la figura del padre di cui adesso molto sulla quale molto si dibatte, e certo fare il padre è una figura che si costruisce, che non è naturale, che non esiste, che deve essere creata a partire da zero, cioè il padre non si è, il padre si fa. Una breve pausa, poi torneremo ad ascoltare l'intervista ad Edoardo Albinati, vincitore del premio Strega. Il cacciatore di libri. Riprendiamo questa puntata monografica sulla scuola cattolica, il libro di Edoardo Albinati che ha vinto il premio Strega 2016. Ecco, quello che mi è piaciuto di questo libro è appunto come l'hai reso in modo narrativo tutto ciò, perché appunto lo si può leggere anche a pezzetti e andare un po' più sulle riflessioni, seguire un po' più la trama, il protagonista che poi più o meno saresti tu e Arbus più o meno. Io non faccio mai la domanda se il romanzo è autobiografico, perché penso che gli scrittori mettano sempre qualcosa di sé. In questo libro però tu hai voluto abbastanza dichiarare che ti sei rifatto alla tua storia, al tuo quartiere, alla tua scuola, al quartiere Trieste di Roma, eccetera. Perché l'hai voluto così personalizzare? Ma io penso che sì, in questo caso sarebbe stato un po' ipocrita travestire, camuffare questo personaggio che racconta la storia, chiamandolo Piero piuttosto che Edoardo Albinati. Cioè a questo punto il velo, così la mascheratura di un personaggio fittizio, mi sembrava non più autentico, perché in realtà questo io narrante non so quanto poi corrisponda in pieno al 100% una persona che parla e si confessa. Non è detto che confessi sempre la verità, può anche dire un sacco di balle, insomma, e ce ne sono in questo libro a voglia. Però mi sembrava che da una parte mi rendesse più facile il lavoro e dall'altra parte mi sembrava una garanzia, come dire, di presenza fisica di un narratore che tenesse insieme col suo corpo, diciamo, col suo corpo vivente, con gli anni che aveva, con le sue passioni, le sue paure, le sue emozioni, le sue speranze, potesse tenere insieme l'enorme quantità di dati e di altri personaggi e di storie che altrimenti sarebbero un po' partiti per la tangente. Quindi, diciamo così, il libro non è affatto autobiografico, malgrado sia pieno zeppo di materiale autobiografico, però più che un'autobiografia, infatti, io la definirei una confessione. Ecco, questo libro è una lunga confessione di un personaggio che si chiama Edoardo Albinati, ed è stato scritto questo libro da Edoardo Albinati, ma diciamo così, non è, si poteva chiamare non so, in un modo qualsiasi, diciamo modo che c'è del vero, del verosimile e della fiction. Sì, però diciamo così, l'una cosa si rovescia nell'altra, tanto che in molti casi io adesso non sono più assolutamente convinto che l'una sia una cosa inventata e l'altra sia una cosa ricordata, perché poi anche il ricordo, diciamocelo, la memoria è forse la facoltà più fantasiosa e inventiva. Era la realtà come la vedevi dai tuoi occhi. Ma più che altro come la creavo mentre la stavo scrivendo. Si è parlato molto della scuola cattolica per il fatto che è un libro molto lungo, sono 1300 pagine, molto dense tra l'altro. Io stessa all'inizio ero rimasta un po' spaventata, poi ho capito che bisognava leggerlo lentamente perché c'erano molti concetti da assimilare. L'ho sottolineato ed avendo le pagine sottili qualche pagina l'ho anche un po' bucata, ma questo fa parte dell'amore per i libri, secondo me. Qualcuno potrebbe dire che sei un narcisista, dice uno scrittore ritiene che è indispensabile, tutte le 1300 pagine sono indispensabili. Ho sentito un tuo intervento nel quale dicevi che tu avevi studiato tanto, ci hai messo 9 anni per scrivere questo libro, in realtà stavi dando un servizio al lettore, perché tutto sommato tu ci hai messo 9 anni per capire delle cose e noi magari ci mettiamo 9 settimane per leggere il romanzo, e questo è il patto col lettore che fai, cioè gli stai facendo, diciamo, un favore, o stai chiedendo anche al lettore un impegno nella lettura del tuo libro? Ma io fondamentalmente non credo che vi sia un patto, nel senso che la persona che compra il mio libro, diciamo, lo fa spontaneamente, autonomamente, lo fa con una speranza, lo fa con una speranza e dunque anche una possibile delusione. Quando un libro è così grosso, è chiaro che chi accetta di comprarselo, chi non parte anche giustificatamente dal principio, no, io questo non me lo leggo perché è troppo grosso, troppo pesante, troppo lungo, troppo qualcosa, è chiaro che sta creando fin dall'inizio un investimento che è suo, che non è mio, cioè è lui che, cioè io non è che ho detto tesoro, adesso te lo sei comprato, vedi un po', cioè la famosa cosa che si dice, volevi la bicicletta, adesso pedala. Allora, se una persona si mette in questa, che comunque è un'impresa, anche da lettura, cioè un'impresa, non è stata tanto un'impresa scriverlo, o forse lo è stato, ma comunque è un'impresa compiuta da un singolo. Se poi molte persone replicano questa impresa o accettano questa sfida come lettori, del tutto disinteressatamente, perché mentre io posso dire l'ho fatto per la mia gloria, per il mio successo, per la fame di passare alla storia, per il denaro, non so, per qualcosa, il lettore perché lo fa? Non lo so, se lo vuoi fare vuol dire che ti stai mettendo dentro un gioco che evidentemente ti piace giocare, e ti piace giocarlo a lungo, altrimenti ti saresti comprato il libro di 100 pagine. Se quindi ti immergi lì dentro, vuol dire che sì, stai facendo un investimento di te. Ecco, però tu in questo libro hai voluto mettere una storia narrativa, perché si segue un percorso narrativo, l'amicizia banalmente fra il protagonista e Arbus, il tuo compagno di scuola, poi alla fine c'è il famoso tentativo di radunare i vecchi compagni di scuola, eccetera. Ci sono le riflessioni filosofiche, ci sono le riflessioni politiche, perché era un periodo politico particolarmente intenso. C'è il delitto del Circeo, in parte raccontato, in parte spiegato, eccetera. Cioè, ci sono diversi strati. Perché hai voluto mettere tutto insieme e non hai pensato, per esempio, di farne 2 o 3 libri? Beh, il bello del romanzo è che permette proprio questo che tu dici, il mettere insieme. Il romanzo è la grande come genere, è un genere ibrido, spurio, è l'unico che permette la connessione di tutto. Certo, non è detto che sempre in ogni romanzo debba esserci tutta sta roba, anzi, per fortuna non sempre. Non dico che abbia voluto mettercene tutte, perché ce ne sono infinitamente altre. Cioè, non messe quelle che mi sembravano, diciamo, prima di tutto che mi piaceva raccontare, non so, il diabolico scherzo che viene fatto alle spalle di questo professore, di questo prete, professore di scienze, che coltivava questa pianta che fioriva una sola volta nella vita e che questi crudeli miei compagni fanno morire con una iniezione di acido cloridrico. Ecco, io quella cosa lì ce l'ho voluta mettere, perché, e non ce l'hai messa un'altra, non lo so, però quel racconto mi sembrava la quintessenza appunto della crudeltà adolescenziale nei confronti di un vecchio prete frocio che amava una sola cosa in realtà, cioè quell'agave che avrebbe una volta fiorito. Ecco, episodi di questo tipo il libro ne sparge a piene mani, così come sparge a piene mani quelle che io non so se definirle riflessioni, però sono dei rimuginamenti intorno alle cose che uno ha incontrato. Cioè, incontriamo questa classe di maschi, mi viene inevitabile ci siano delle indicazioni su come funziona un gruppo maschile, perché il gruppo maschile funziona in un suo modo che è tutto specifico e che un maschio come me ha incontrato a scuola, nel servizio militare, nello spogliatoio delle palestre o dei campi di calcio e così via. Quindi, ecco, perché non spendere anche qualche parola su come funzionano queste cose? Penso che uno scrittore sia, io, mi dispiace, so che è un po' antiquata come pensiero, ma io credo che poi uno scrittore sia anche un intellettuale, anche debba qualcosa ai suoi concittadini, insomma, in termini di lingua, in termini di concetti, in termini di pensiero, insomma, quindi non è che col fatto che tu sei un romanziere allora sei spensierato oppure devi scrivere solo storie, c'è questo mito del... Un po' trama. Della trama, della storia, raccontare storie. Sì, è vero, le storie sono molto belle, ma se non sono accompagnate anche da quello che le persone pensano, perché poi dentro questo libro il 99% dei pensieri non sono miei, sono pensieri pensati da altri che io mi limito umilmente a raccogliere e a dire di nuovo. E questo era Edoardo Albinati, autore di La scuola cattolica, pubblicato da Rizzoli, che ha vinto lo Strega 2016. Per i festival culturali di questo periodo vi segnalo l'appuntamento con Collisioni a Barolo, provincia di Cuneo, da giovedì 14 a domenica 17 luglio. Un festival arrivato all'ottava edizione, da sempre caratterizzato, diciamo, da un mix, da una collisione appunto fra letteratura, musica e altre forme di arte. Allora, per quanto riguarda i libri, l'evento più atteso è molto probabilmente quello con Svetlana Alexievich, giornalista, scrittrice russa, premio Nobel per la letteratura nel 2015. C'è anche attesa anche per il francese Michel Houellebecq in una delle sue rare apparizioni pubbliche. L'anno scorso il suo romanzo Sottomissione era diventato sia un caso letterario che, diciamo, sociopolitico. Ci saranno incontri anche con l'americano Richard Ford, gli italiani Stefano Benni, Mauro Corona e Re De Luca. Per quanto riguarda la musica, concerti di Elton John, Mika, Niccolò Fabi e Negramaro. Tutto il programma e i dettagli su collisioni.it, ripeto, a Barolo dal 14 al 17 luglio. Prima di chiudere segnaliamo la nuova puntata di Autori che sarà online sul sito del Sole 24 Ore da martedì. Ospite Alberto Cavanna che parlerà del suo libro La nave delle anime perdute pubblicato da Cairo. È tutto anche per questa puntata, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate questa e le altre puntate del Cacciatore di Libri d'Archivio su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.